di me. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo. Cosa stai facendo? Non è questa la nostra musica di sottofondo? Vabbè, io la volevo risentire. Ah, diciamo. Perché da quando hai dato quella rilettura del compagno DJ Francesco, del compagno DJ, l'hai apprezzata di più. Sì, l'ho apprezzata. Adesso vorrò sentirla tutta la notte. Va bene, allora adesso ti dico invece che ci abbiamo, smettiamo un attimo di parlare di questo confronto padre e figli, entriamo in un ambito scientifico, un pochino più serio e magari anche meno cazzone. Vabbè, allora questa sera veramente tra musica, cinema, addirittura adesso andiamo nel campo della scienza proprio. Adesso tocca alla scienza. Allora, dovremmo avere in linea Marzia Filippetti, autrice dell'articolo su Scienza, buon sangue non mente. Marzia, ci senti? Eccoci, buonasera. Buonasera. Buonasera Marzia, benvenuta a Luogo Comune qui su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Dunque, autrice di quest'articolo proprio dal titolo Buon sangue non mente. Sì, mi avete rubato il nome alla trasmissione. Ma noi da quello che siamo partiti, appena l'abbiamo trovato su internet abbiamo detto, ecco, facciamo la trasmissione su questo. Mi potrei quasi citare per plagio, ma sto scherzando chiaramente. Beh, così magari... meno male che hai detto che stavi scherzando, perché se no davvero pensavo che adesso andavi dall'avvocato per citarci. No, figuratevi. Marzia, senti, scherzi a parte, appunto abbiamo letto questo tuo articolo su Oggi Scienza per quanto riguarda il buon sangue non mente. Tu appena adesso ci hai ricordato che il tuo articolo si chiama così, ma ci vuoi parlare un po' del contenuto di questo articolo e come è inerente appunto alla nostra trasmissione adesso? Sì, in realtà si tratta, potrebbe essere uno studio marginale, invece in realtà non è proprio così, perché le applicazioni che partono da questa ricerca potrebbero essere infinite. In realtà è molto semplice, alcuni ricercatori di Rotterdam, quindi siamo nella vecchia Europa, hanno cercato di individuare, di accertare l'età di un individuo a partire da una piccola traccia di sangue. E questo appunto va a inserirsi in un quadro estremamente importante per individuare l'età di persone che potrebbero essere scomparse in casi di omicidi, in casi di persone appunto che a seguito di calamità naturali devono essere rintracciate. E lo studio è molto semplice, perché in realtà si parte da un dato scientifico e sono riusciti a individuare l'età di una persona attraverso le famose cellule T. Scusa, famose? Cioè, cellule T, dici? Allora, le cellule T sono dei semplicissimi linfociti. I linfociti sono delle cellule che tutti noi abbiamo nel nostro organismo e che sono quelle responsabili di così cacciare i virus, per esempio quelli dell'influenza. E queste cellule T si chiamano proprio in questo modo perché sono sviluppate dal timo. Il timo è un organo che in realtà più cresciamo e meno viene utilizzato, al punto che addirittura non diventa più un organo ma è un tessuto, e queste cellule T vengono prodotte da questo timo, e nel produrre queste cellule, che poi chiaramente sono diciamo dei progenitori cellulari, nel trasformarsi in quelli che appunto possono essere considerati guerrieri del nostro organismo, rilasciano una serie di scarti. Bene, questi ricercatori sono riusciti a individuare l'età di una persona proprio dalla concentrazione più o meno bassa di questi scarti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se l'età di una, siamo di fronte ad un bambino, ad una persona appunto molto molto piccola, ritroveranno molti meno scarti. Se siamo dinanzi a una persona adulta ci saranno sicuramente più scarti genetici di questa natura. Chiaramente i dati sono molto più complessi di quelli che sto dicendo adesso. Guarda, se, oddio mio, non vorrei dire una sciocchezza perché non ho la completezza dell'informazione, ma visto che tu parlavi di scarti o di reazione, era un po' la datazione dei reperti con il carbonio 14, nel senso che mi pare che sottoposto un reperto a, appunto, a questo esame del carbonio, gli scarti che rilasciava di questo materiale. No, in realtà succede più o meno così. L'idea appunto è che il timo, con l'avanzare dell'età, perde la sua funzione, cioè quella di produrre questo tipo di linfociti, cioè questo tipo di cellule che sono in grado di individuare i virus, e quindi nel trasformarsi da cellule progenitori, che sono una sorta di mamma e papà dei nostri linfociti, nel trasformarsi danno vita ad una sorta di scarti genetici, e quindi meno scarti genetici avremo e inferiore sarà l'età della persona. E secondo te questa cosa potrebbe appunto avere applicazione pratica in, prima addirittura dicevi, mi pare, omicidi, pulizia, no? Sì, perché in realtà questi ricercatori sono stati in grado di rintracciare l'età di una persona a partire da una piccolissima traccia di sangue, e addirittura lo studio che hanno da poco pubblicato nel mese di novembre su Current Biology, che è una rivista scientifica più che illustre, ha individuato che con ottimi margini di accuratezza che queste tracce ematiche sono in grado di dirci l'età della persona da quale proviene. Cioè, tu mi vuoi dire che adesso Siasello dovranno rifare tutto da capo, cambiando tutta la tecnologia? Sì, più che, e oltre loro sicuramente anche gli sceneggiatori di Cold Case, della famosa fiction americana, dovranno rivedere tutto, oltre CSI, i nostri RIS, sicuramente avranno una tecnica in più per valutare l'età di una persona, su questo sono più che sicura. In realtà poi, tra l'altro, il test è stato effettuato su 195 persone e è anche stato ripetuto a distanza di un anno e mezzo, confermando tutti i dati che avevano avuto, quindi anche non sarà necessario avere delle tracce ematiche fresche, per intenderci. 195 persone, tutte con la stessa età oppure proprio miste? In realtà l'età variava da poche settimane di vita fino a circa 85 anni di età. Cioè, voi avete preso il sangue a dei ragazzini di poche settimane di vita? Sì, oddio mio! No, guarda, scienziati maledetti. Scienziati, che il vostro Dio è la scienza, No, bastava semplicemente pungersi un dito di una mano. Era molto, molto meno invasivo di quello che si possa credere. Noi qua stiamo immaginando... No, un povero bambino che urlava, che diceva no, anzi no, non diceva nulla, poche settimane. Cioè, diceva uè, uè. Comunque, tengo a sottolineare che si tratta comunque di volontari, sono persone che decidono di porre la propria persona ai fini della ricerca, sono tutti volontari. Certo, Marzia, come sempre, noi per mantenere il tono cazzone della trasmissione stiamo sempre scherzando, anzi, però a questo proposito ti ringraziamo invece del tuo intervento. Figuratevi, è un piacere. Grazie, Marzia. Ciao. Alla prossima, se volentieri vorrei essere ospite con altri articoli. Soprattutto se l'articolo ha come titolo proprio un luogo comune. Noi stiamo qua. Cercherò, così almeno mi rubate anche questo. Brava. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, grazie. Salutiamo dunque Marzia Filippetti, autrice dell'articolo Buon sangue non mente.